Hai collegato l'ausiliaria? Sì. Siamo in ritardo. Ci sono quasi. Sbrigati. Ma dove sono finiti? Cosa? Dove sei? Iron Man, stiamo ancora a Monti Tiburtini, devi cominciare a collegare a te la puntata. Cosa? Che siamo in ritardo, alle 5 andiamo in diretta. Hai collegato la console? Sì. Sì, vabbè, ma hai collegato l'ausiliaria? Dai, vabbè, mo te passo Virgi, che te vuole dire una cosa pure lei. Oh, Iron Man, senti, mi dispiace, ma la scaletta la devi fare te. Qua stiamo arrivando in ritardo e non ci abbiamo sicuramente tempo. Però ti devi ricordare che, allora, Francesco sta subito dopo Betta, che si collega a una cosa che ha detto Viola. Però che Viola si collega a un'altra cosa che ha detto Gabri la puntata scorsa. E quindi devi mettere tutto quanto in maniera che si capisca, va bene? Ok, aspetta. Dai, ti passo Betta. Aspetta, non ho capito. Oh, senti, mi devi caricare i contributi. Sì. Però ricordate che il contributo 1 deve stare dopo il contributo 43, il 13 dopo il piano. 15, il 17 dopo il 20. Oh, ma guarda, mi sto sorpassato a destra. Oh, e mo... Ma maledetto! Ma che fai, Sony? E mo che ha suonato canta! No, comunque stava a dire, allora i contributi, mi raccomando l'ordine, il 1000 dopo il 33. E mi raccomando, allupami il sottofondo, Rossi i contributi, rossi. Ok, ho memorizzato. Aspetta, posso Franci? Non lo so, io. Oh, Iron Man, senti, ascoltami, risolvimi l'equazione che ho caricato sul drive, che mi serve per la puntata, Ma io non capisco. Oh, no, stiamo ascoltando, ascoltami, mi raccomando, prima le moltiplicazioni e poi le somme, Non il contrario, non mi fa errori da blocchi di correzione, che lo sai che mi fa incazzare, Mi raccomando. Aspetta, ti passo Gabriele, aspetta. No, io. Oh, Iron Man, ciao, buonasera. Anche tu. E mi raccomando, regolami bene i volumi delle cuffie, che c'ho una puntata di Cigni del Balacà che è veramente un bijou. Ciao, ci vediamo fra poco, Quindi capito, sbrigati Iron Man, ma dai. Ma non posso fare tutto io. Non scappa la cazzetta. Sbrigati. Dai, ci vediamo fra poco, ciao. Dio Alexa di preparare tutto. E adesso come facciamo? Maledizione, non posso fare tutto da solo. Vanno a mangiarsi la porchetta e neanche ci invitano. Oh, aiutami. Mancano 5 minuti alla diretta. 4:59. 4:58. 4:57. Smettila. I contributi dove sono? Dopo il 10, dopo il 30, dopo il 43. Si trattano sempre come l'ultima ruota del carro. E pensare che si fanno chiamare Avengers. Hai ragione. Ci hanno dimenticato. Si ricordano di noi solo quando gli serviamo. Hanno dimenticato tutto. Dimenticato cosa? Io ho creato gli Avengers. Non ci salutano più. Da troppe puntate. Mancano 3 minuti. Sbrigati. Aspetta, devo risolvere questa equazione per far funzionare le cuffie di Capri. E devi anche fare la scaletta. Mancano 2 minuti e 45. 44. 43. Ora basta. Calmati. Sai cosa succede quando il tuo reattore si surriscalda? Non mi importa. Ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? L'ARC è un reattore troppo potente. Rischi di aprire un portale dimensionale. Fermati. Oh no. Non riesco a controllarlo. Oh no. Che cosa ho fatto? Hai sminchiato il multiverso. Oh no. La realtà che conoscevamo ora non esiste più. Oh no. Cosa? Sono tornati. Palle, il traffico. Ciao Siri, ciao Superman. Cosa? Tutto a posto, l'abbiamo fatta, abbiamo collegato tutto. E abbiamo portato gli avanzi della porchetta. Ora sì che non si ricordano di te. Tutto pronto? Vai Siri, lancia la sigla. Che cosa abbiamo fatto? Vieni che non vedi, perché non sono più quelli che cerchi veramente. E bentornati in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers in questo meraviglioso sabato 13 maggio 2023, dove tutto è come è sempre stato e il successo non ci ha cambiato, siamo qui sempre in diretta e saluto alla mia sinistra, non lo so, saluto innanzitutto Superman, ma comunque anche Siri. Sì, no. Salutiamo. No, Superman, lo so, mi scordo sempre di salutarti. Questa volta ti ho messo per primo. Comunque saluto il nostro fonico di fiducia, Francesco. E buonasera, buonasera a tutti, ciao. E a seguire, a Beautiful Mind, la nostra mente matematica, Gabri. Buonasera, matematicamente corretto. La giornalista faziosa, Betta. Buonasera, piccoli giuristi. Il maestro Virginia. Ciao, ciao a tutti, ciao. E la nostra bassista Viola, che oggi comunque la salutiamo a distanza, la nostra titolare della, diciamo, rubrica che cura i bassisti e non solo, che ci segue in diretta. Beh sì, da certo che parte, ci segue, la salutiamo, ma oggi che siamo proprio noi stessi, ognuno è sempre... Mi sento più vivo che mai. Salutiamo anche il potente Suano. Grande, applausi. Potente Suano, appassionato di Beatles. Appassionato di Beatles. Sì, l'enciclopedia dei Beatles e non solo. Troverò anche oggi il modo di intrattenervi con le amenità riguardanti i quattro di Liverpool, ma quest'oggi... Ma quante quindi, ne sa questo ragazzo? Lo so, trovo sempre la roba sconosciuta, di nicchia, diciamo. È potente per questo. Comunque, sono molto contento che quest'oggi non si abbia un tema, perché quello è una cosa che ci porta male. Invece quando ci sliberiamo con la S nelle nostre rubriche, ognuno appunto preso dal proprio interesse, secondo me diamo il meglio, una sinergia incredibile. Avengers, Superman, che dici tu? Che poi il tema ce l'avevamo, ma non abbiamo fatto a tempo a prepararcelo. Non abbiamo fatto a tema. Volevamo fare il multiverso, ma purtroppo non abbiamo fatto a tempo. Quindi... Alla fine abbiamo scelto la porchetta. È vero, è vero. Sì, vabbè, la porchetta. Siamo andati a mangiare. Universi paralleli, però poi è una cosa del genere. Vabbè, dai, era troppo complicato. Te pare che famo una puntata così? No. Poi io preferisco rimanere attaccata alla mia cattedra, che è quella di matematica. L'ho sempre stata. La tua amata matematica. La mia amata matematica. Che consola, la matematica consolatrice nella quale riversa le sue giornate Gabri, la matematica, sì, appunto, sì, sì, china sui libri. Il mio pane quotidiano. Molto bene, quindi carichi, così come vi lascio, vi voglio ritrovare dopo questo pezzo che ci andiamo a sentire di musica suggerita dalla mente artificiale di Siri. Sì. No, non è vero, è un suggerimento di Superman. Va bene, ok, andiamo con David Bowie, Cooks. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you, 'cause if you stay with us you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in the lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance. Le loro personalità si sono scambiate. Dobbiamo riportarli indietro. Riproviamo. E di nuovo in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers. Non dimentichiamo i parametri base. Anzitutto dare le coordinate, che normalmente lo faceva Betta, giusto? E quindi... Esatto. Prego, prego. Allora, ci potete trovare anche in podcast su... Grande, sta leggendo. Aspetta, non ci credo. No, Dio santo, non il bello della diretta. Allora, no, che un applauso di incoraggiamento. È sempre così brava a dare contatti. Infatti, capito? Io veramente sono basito. Prego. Ci potete seguire in diretta su Radio Forte, su https://fortepronestino.net/radioforte. In diretta video su Giu Jitsi, non è vero mai, però sul canale Music Forte Factory potrebbe succedere prima o poi. E potete scriverci, commentarci o insultarci sul canale Telebrom, bro, che si chiama Centocelle Avengers. Me. Molto bene, è passata da 0 a 100 come ama fare lei. E non manchiamo anche di ricordare che si sta svolgendo intorno a noi il Tattoo Fest, oggi e domani al Forte Prenestino. C'è questa kermesse di tatuatori che si svolge fra il sopra e il sotto del Forte Prenestino, appunto concerti di sopra, tatuatori di sotto nelle centocelle e niente, quindi noi invece siamo qui rintanati a fare i vaghi, a fingerci morti, però almeno lo diciamo. Ma facciamo detto quello che ciò, facciamo di solito. Facciamo quello che facciamo di solito, cioè? Cioè facciamo la radio. Ah ok, noi siamo noi stessi, il successo rubriche non ci ha cambiato, giusto, ah, no, me l'ho già scordato. E quindi, ottimo, siccome il successo non ci ha cambiato, andiamo dall'espertone di reunion e scioglimenti, praticamente l'espertone di musica, cioè storia delle band, storia delle storie delle band, Francesco, che con Rise and Fall, prego, prende la parola. Prego, puoi lanciare la sigla, Daniele, vai. Sigla! La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno, potresti dirmi addio. Lasciarsi, qui non ci sto. Vai. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. La nostra bella valle, lo manda, ricominciamo oggi, siamo amici, siamo sotto sotto la cenere, ci sarà un ci che aspetta ancora, ma che succede, la inseparabili. E cari amici della rubrica Rise and Fall, buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora, la reunion di cui parlo oggi, scusate, sono molto emozionato, è come se la facessi per la prima volta, sono molto emozionato. Wow. Di cui parlo oggi riguarda un gruppo che è stato attivo per il genere adesso afferente durante un periodo storico, pensate un po', che oso definire di libertà artistica innanzitutto, ma soprattutto di competizione sana e di mercato libero. Attenzione, è così, Superman è così. Loro, insieme ad altri gruppi e ad artisti altrettanto validi, si davano, diciamo tra virgolette, battaglia per accaparrarsi che cosa? Diciamo il diritto di suonare per qualcuno, o meglio per qualcosa, casa e ovviamente vabbè guadagnarci, perché insomma sono dei gruppi, insomma qualche soldo ce lo devono fare. Sì. Ma diciamo insomma a onor del vero c'è da dire che loro in quel periodo erano decisamente i migliori, sia per successo che per quello che facevano. Ma insomma, ma avete capito di chi sto parlando? Volete un indizio? Prego maestro. Gigrobo. Quasi quasi. Lost. Gli Iron Maiden. In Sepoltura. Sopra i grattacieli o nel deserto va la sua strana macchina in nemico. Dai dai che l'avete capito chi sono. Dai, come si chiamavano gli scudieri lì? Ipu. L'avevo già detto io. Questa era durante la loro fase dark, poi sono diventati più... Ah, questo è Tiziano Ferro? Sì. Credo fosse il loro frontman all'epoca. Poi appena ha fatto i soldi ha lasciato. Vabbè. Come Britney Spears ha cambiato voce. Colpa di Mara Maionchi. Qui invece c'era una giovanissima Giorgia che cantava... si sente. Ma non quella Giorgia. Non quella Giorgia. Era irresistibile questo. Ce la facevo, scusa. Anch'io. Non ce la faccio. Troppi ricordi. E concludiamo con questo grandissimo. Tutti insieme. Hanno fatte due. Però. Armonizzato. Una pietà per me. Non hai messo i livelli. Wow. Grande. Scusate. Ebbene sì. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di loro, dei mitici cavalieri del re, gli ABBA italiani, ragazzi, gli ABBA italiani. Ma maestro, sembri molto esperto di cartoni animati, veramente. Guarda, te giuro, guarda, non me l'aspettavo. Non l'avrei detto, non l'avrei detto, ma... Ah, quando gli esperti che abbiamo qui a Centocelle Avengers cercavo queste cose. Guarda come rosica subito che gli hai rubato il campo suo. Vabbè, lo so. Vai, per una volta fammelo fa, no? No. Fammi fare il nerd. No. No, ma solo di chi, scusa? Questo mi ricorda qualcosa. Allora, perché parlavo di mercato libero e di competizione sana prima? Perché dovete sapere che, insomma, prima della fine degli anni Ottanta il mondo delle sigle italiane era ancora terreno fertile, diciamo, e usufruibile da un sacco di gruppi e di artisti. Prima che la Fininvest, con sua maestà Cristina Prima, diciamo, ci mettesse le mani sopra e se lo prendesse più o meno tutto. Ma non avevi avuto problemi te con... Con Cristina? Con Cristina, Cristina. No, oddio, sì, sì, è vero. Sì. C'era un gramofonico. Stavo cercando di dimenticare, però vabbè, niente, è così. Ah, buona Cristina. Mi ha riaperto questa ferita, vabbè. E, niente, insomma, prima che Cristina Prima si prendesse tutto quanto, erigendo delle grosse mura a protezione, e tanti saluti a tutti gli altri. Questo fondamentalmente, diciamo, è successo per un motivo, cioè che le reti del Caimano praticamente si sono accaparrati piano piano la maggior parte dei cartoni animati, che prima invece avevano una maggiore distribuzione sulle reti locali, regionali, il che dava la possibilità di appaltare, diciamo per così dire, le sigle a diversi artisti. Dopodiché, verso la fine degli anni Ottanta, invece la Fininvest si è presa gran parte del paniere, diciamo, dei cartoni e delle canzoni, quindi concedendo direttamente i diritti agli artisti della propria scuderia, cioè Alessandra Valeri Manera, anche detta Alessandra Vietata ai minori, perché era quella che faceva le censure ai cartoni animati, già proprio lei, che era l'autrice dei testi delle canzoni, e Cristina D'Avena, cioè che era quella che le cantava. Oh, poi a scanso di equivoci, io ci tengo a dire che nonostante ci abbia avuto un grosso trauma con Cristina D'Avena, io comunque le voglio bene, quindi questo ci tengo a sottolinearlo. No, ma ti era capito. Questo è bello. Però è bello. Diciamo che c'è stata una grossa migrazione, diciamo, dei cartoni dei diti verso i diti di Arcore, per così dire. Nel pre-Giorgio Vanni. Esatto, il pre-Giorgio Vanni, tra l'altro. E questo praticamente ha lentamente reciso i fili artistici che legavano il mondo dei cartoni a tutta una serie di artisti che ne curavano appunto le sigle. Ma chi erano questi artisti oltre ai Cavalieri del Re? Quali erano? Beh, vabbè, ragazzi, ce ne sono veramente tanti. C'erano i Rocking Horse, se voi vi ricordate la sigla di Sanpei, Forza Sugar, Arale, gli Oliver Onions, quelli che hanno fatto Galaxy Express, ad esempio, i Micronauti. Esatto, e anche di, esatto, di un sacco di film pure di Bud Spencer e Terence Hill. I Micronauti, che hanno fatto Titan 3, Capitan Futuro, beh, Nico Fidenco, Cyborg 007, dove c'era tra l'altro un Nico Fidenco è un grandissimo bassista che interesserebbe la nostra bassista Viola. Ma non c'è. Ma non c'è, vabbè, però quello sarebbe stato figo. Enzo Draghi, che ha cantato Le Tartarughe Ninja, ed era la voce di Mirko dei Beehive, tra l'altro. Ma non quel Draghi. Non quel Draghi. Odeon Boys, che hanno fatto I Cavalieri dello Zodiaco, Le Mele Verdi, Pat Mademoiselle Anne, Focus, che ha fatto la sigla di G. Grobo, gli Spectra, vabbè. E poi oltretutto avevamo anche diciamo sia compositori sia direttori d'orchestra. Addirittura avevamo Ulpio Minucci, che è quello che ha composto la sigla di Robotech, Vince Tempera con la sua orchestra, che ha fatto le sigle di Goldrick, e Augusto Martelli, che ha fatto quella di Gatchman. Poi avevamo musicisti del calibro, sempre parlando di bassisti, musicisti del calibro di Ares Tavolazzi, che ha suonato il basso nelle tre sigle di Goldrick. O vogliamo citare un Roberto Vecchioni, che canta la sigla di Barba Papà. Ma dai! O, e questa è veramente la chicca, ragazzi, una super giovane Veronica Pivetti, che canta la sigla di Danguard. Oh, ragazzi, mamma, questa è veramente... Okay. Quella Pivetti? Quella Pivetti. È la, e la leggenda di Quale Piero Pelù. Quale delle due, scusa, a sto punto? Veronica o... l'attrice, Veronica. Veronica, Veronica, okay. Veronica. E la leggenda la leggenda, esatto, di Piero Pelù, che sembra, e poi vabbè, lui ha smentito, però insomma ci piace pensare che sia stato lui a cantare, tant'è vero che poi ne fece una proprio lui, quando domani verrà, esatto. Pom, pom, pom. E tra l'altro il mistero della sigla di La Mucca, e nessuno sa chi l'ha composta, vabbè, questa com'è, sarà... difficile stare, com'è difficile, cioè, stare, cioè, autore anonimo, non capito, a parte che forse è stata svelata sta cosa, però ammazza, non ci mettere le mani sul fuoco, sì, okay. Ma quella era una delle, se cose un altro, per riscuotere un po' di, ok, vabbè, insomma, comunque diciamo che agli inizi dell'anno, anche prima e insomma fino all'inizio degli anni Ottanta, l'universo delle sigle dei cartoni animati era un po' come la serie A prima della crisi del 2000, piena zeppa di campioni, veramente, cioè veramente era una roba sgravatissima. E allora perché proprio i Cavalieri del Re? E beh, insomma, a onor del vero, loro sono stati il gruppo campione di quel periodo lì. Insomma, se alla fine degli anni Ottanta è Cristina a prendere il monopolio delle sigle dei cartoni animati, il decennio degli anni Ottanta è comunque segnato dai successi dei Cavalieri del Re in assoluto, i cantanti più richiesti dai discografici, e con ben, pensate, 10 milioni, se avete capito bene, 10 milioni di dischi venduti in soli 5 anni. Minchia! Già. E adesso un pochettino di storia. Allora, al cuore del gruppo c'è Riccardo Zara, che diciamo nella fine degli anni 70 fa l'autore per altri cantanti, scrivendo canzoni come Viaggio di un poeta per i Dick Dick, che vincerà il Festival Bar, Addio Beatles, mi dispiace Daniele, ma si chiama così questa cosa qui. Ups. Un colpo al cuore. Tiziana Rivale, e altre per Graziella, Gianni Pettenati, Ornella Vanoni, Bruno Lauzi, insomma, ha scritto veramente un po' per tutti. Nel 77, assieme ad alcuni amici, comincia proprio ad avvicinarsi al genere sigla, incidendo per l'etichetta LS Cover la cover di Furia, Cavallo del West, Orzo Way e Sei Forte Papà, insomma comincia a incidere sigle che già esistevano, ma Riccardo vuole fare qualcosa di suo, quindi nel 77 incide per la Fonicedra due sigle di grandissimo successo per i The Fin Lessi e Rin Tin Tin. Quindi nel 78 insieme alle Mele Verdi realizza Wubinda, una hit da oltre 500.000 di copie, quindi, ragazzi, lo so, Superman, queste cose qui. Ma perché poi te sei vestito di rosso oggi? Cioè, vabbè. Ma poi tu non avevi un gruppo che suonava, sigle dei cartoni, gli Happy Cartoons? No, non mi sembra. Non era lui. No, poi te racconterò dopo, verso la fine della rubrica, c'è, cioè, una cosa strana. Se cioè, cosa... La nostra matematica Gabri, che dovrebbe essere esperta, ma... Vabbè. Sì, sempre sul pezzo. Comunque, andando avanti, diciamo, Riccardo sposa la brasiliana Clara, e comprano alle porte di Milano una cascina, al piano superiore costruiscono il loro appartamento e in quello inferiore pensano un po' a una sala di incisione tutta loro. Li raggiunge Guimar, che è la sorella minore di Clara, e decidono così praticamente di lavorare da soli, senza altri aiuti. Riccardo è cantante e si occupa delle musiche e degli arrangiamenti. Guimar, tra un esame di università e l'altro, diventerà il primo tecnico del suono femminile in Italia, e Clara, pensate un po', sarà la prima psicologa cantante, e nel gruppo più tardi entrerà anche il figlio Jonathan, il figlioletto che cantava in Devilman, non so se ve lo ricordate, quello che faceva i coretti alla fine. Insieme scrivono i testi e cantano. Pensate un po' che quasi sempre i discografici commissionano le sigle loro per telefono, raccontando la storia a grandi linee. E a proposito di questo aneddoto, cercatevi su YouTube il video in cui Riccardo Zara racconta di come ha scritto la sigla di Renzi la strega, è un capolavoro. Praticamente gli hanno detto tre cose, lui su tre cose ha scritto una sigla. Vabbè, ma facevano sempre così, se sì, vediamo sì, la prima puntata, le prime due tre puntate sopra. Esatto. E insomma, da quei pochi appunti nascono dei capolavori, questa. Insomma, da qui in poi si sviluppa tutta la loro storia fatta di sigle, insomma, di un grandissimo successo. Una volta raggiunto quel successo, Tutti i giornali li vorranno sulle loro pagine, Topolino, TV Sorrisi e Canzoni, Il Corriere, Il Monello, Corriere dei Piccoli, Famiglia TV, Il Giornale di Barbie, Tele 7, Novella 2000, Il Giornalino, La Stampa, insomma, bene, tutti. Vengono chiamati da un sacco di programmi TV, Super Classifica Show, Ambrogino d'Oro, Bim Bum Bam, Disco Ring, Ciao Ciao, Io Premiatissimo, Super Flash, vabbè, insomma, Pronto Raffaella, Telemike, vabbè, insomma, dappertutto. E ogni volta che si esibivano in TV, e questa era una cosa super figa, creavano abiti inerenti alla canzone che dovevano presentare, anticipando, pensare, di 15 anni futuri cosplayer, praticamente, vabbè, grandissimo. Da ricordare, tra l'altro, cosa fighissima, nell'83 c'è stato il Festival Nazionale delle Sigle Televisive e ci sono stati ospiti tra i più grandi interpreti delle sigle come Douglas Meakin, Le Mele Verdi, Fratelli Balestra, Nico Fidenco, insomma tutti quelli di, la maggior parte di quelli che ho citato all'inizio, gli Olive Lonions, Giorgia Lepore, il coro di Augusto Martelli, vabbè, insomma anche Cristina D'Avena, pensate un po'. E sulle 10 coppe in palio i Cavalieri del Re se ne aggiudicano ben 5, quindi insomma nonostante la vasta concorrenza. Hanno avuto un sacco di proposte discografiche che il gruppo ha sempre rifiutato, ad esempio la Fininvest, pensate un po', li voleva corrompere e li voleva nel loro team per le sigle. La RCA gli propose di fare un album per rilanciare Gianni Morandi, addirittura, o di proporre un album tutto in lingua brasiliana. Gino Paoli li voleva per un suo album, gli fu chiesto anche di condurre un programma TV. O la Duck Record gli propose di fare tutte le cover delle sigle degli altri interpreti. Ma poverini. Già, diciamo, dopo. Ma poverini gli altri. Dico. Poverini gli altri, lo so, ma era un po' l'assopiglia tutto. Ah, sì. Però insomma, ecco, come appunto dicevo prima, finiti insomma gli anni 80, la pacchia è finita, quindi dice, che si sono messi a fare, diciamo, vabbè, Riccardo Zara ha continuato a fare l'autore per altri artisti e ha pubblicato anche diversi album. Clara Serina ha aperto scuole di psicologia, ha scritto libri. Guimara è tornata in Brasile ed è diventata mamma, ha aperto un hotel ed un negozio, mentre il figlioletto Jonathan ha iniziato a lavorare nel campo pubblicitario. E la Reunion, tu dici, ha vende giocattoli. Esatto. Comunque. E la Reunion, beh, allora in realtà in questo caso sarebbe un po' improprio parlare di Reunion, in quanto i Cavalieri del Re di fatto non si sono mai sciolti, però diciamo hanno avuto un lungo periodo di inattività, però spinti dall'insistenza dei loro fan si rivedono nel nuovo millennio, prendono parte a programmi come programmi TV come Anime in Gioco, Meteore e Matricole, Mac e Mu, Libero, I Migliori Anni, e poi programmano anche una serie di concerti, facendo il pieno per esempio in locali come il Piper a Roma o i Rolling Stones di Milano, a Lucca Comics. Belli Rolling Stones. Belli, lo so, è il tuo gruppo preferito, però... Non commento proprio, guarda. c'è Daniele risentito. Sì. Niente, pensate, a Lucca Comics suoneranno davanti a 10.000 persone, a Venezia davanti a 50.000 persone. E niente, quindi questa è un po' la storia dei Cavalieri del Re. Sarebbe d'obbligo lasciarvi con un pezzo loro, se non che, e qua mi riallaccio a quello che stava dicendo la nostra Betta prima, spulciando su internet ho trovato l'interpretazione di un loro pezzo eseguito da una bassista e da una cantante, veramente molto bello. Ve lo propongo perché non so se vi è successo pure a voi, però io ho come un déjà vu, a vederli sentire suonare, io ho come l'impressione di conoscerli. Ma non solo di conoscerci, proprio pure di averci suonato insieme. Però non lo so, boh, vabbè, sono quelle cose, vabbè, un'altra vita. Va bene, la canzone in questione è... Sono sensazioni, è una vecchiaia, che ne so, vabbè. La canzone è Lo Specchio Magico, che era una canzone, un singolo pubblicato dai Cavalieri del Re nel 1984 per l'omonimo cartone. Loro sono FF King ed Ele Music e buon ascolto. Mentre danza la sua stanza diventa il palazzo del re. Stille ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile né difficile, forse è semplice. non sembra aver funzionato. No, forse invertendo l'energia dei protoni potrei invertire il processo. Non torneranno mai come prima. E bentornati in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 15, sì, alle 17. Grande, sempre con l'orario. Perché di solito non lo faccio io questo. Comunque, scusate, la prima sei volta bravo, non emozionato. Che do i parametri della giornata, comunque di questo sabato 13 maggio. Sono emozionato perché è arrivato finalmente il momento che tutti aspettavano, tutti proprio. Tu lo aspetti sempre, non aspetta mai nessuno. Però mi concedete che è un po' che non la faccio questa rubrica. Mamma mia, ci fai okay. Scatole di questo 100 Celle Avengers pieno di rubriche. La diciamo veterana rubrica dedicata ai Beatles, i quattro ragazzi di Liverpool, è un po' che non la faccio, lo posso dire, e voi pensate forse che io non abbia più armi, non abbia più argomenti per ancora oggi nel 2023 reiterare diciamo quanto i Beatles ci abbiano dato, lasciato e continuino a darci anche oggi. Non mi convincerai mai. Non abbiamo dubbio che tu li abbia. Va bene, allora prima mandiamo quello che di solito è il rituale chiamato sigla e poi ne riparliamo. Sigla! Bentornati a Più Famosi di Gesù, la rubrica che cura la storia, il mito dei quattro ragazzi di Liverpool. Ancora oggi vivo dentro di noi, vero Virgi, vero Gabri, vero? Sì. Ok, ho bisogno un po' di voi perché non è che posso portare sempre avanti sto carretto da solo. Comunque... E Virgi c'è in testa i riff di Gator. Se mi è concesso, proprio perché non è che andiamo in superficie, ma andiamo a scavare. Io oggi apro un po' una nuova ala della nostra biblioteca dedicata ai Beatles. L'ala dedicata appunto al cambiamento, a quel momento in cui mi escono i quattro ragazzi dallo iniziale e si presentano al mondo con una nuova consapevolezza di essere, diciamo, una band che può anche sperimentare, arrangiare, misculare le cose. E quindi, come oggi misculeremmo come al solito con l'elettronica, che ci avevano loro a disposizione? A sinfonica. Prendono e ti miscolano la sinfonica. E questo quindi ci porta a parlare in particolare di un personaggio di loro che più degli altri, diciamo, ha preso sto volo pindarico. Ma tutto ciò ha un suo intro a sua volta, diciamo una matriosca di Beatles dentro Beatles, in cui noi ascoltiamo, diciamo, questa parasigla. Prego. Un bel giorno John disse amico Paul, lo gireremo il mondo con il pop. A quel punto Paul disse non lo so, Ringo, Paul e George, non capite che presto certamente noi saremo più famosi di Gesù. Più famosi di Gesù. E con questa sigla appunto volevamo aprire questa nuova questa nuova parte del nostro racconto. Non bastavano i Beatles originali, pure questi qua ho dovuto fare. Mi volevo concentrare in particolare, dicevo prima, su Paul McCartney, colui che un po' ha preso questa via diciamo neomelodica, perché lui in pratica è andato in fissa con Vivaldi. A un certo punto gli piacque molto la lirica italiana, in particolare Vivaldi, e quindi sta cosa degli archi diciamo il produttore Ricky Martin suonò per loro, l'ha voluta un po' Paul, però cioè, non si poteva soltanto mettere gli archi e basta, bisognava misculare anche una storia, cioè non più parlare di insomma cose superficiali, ma andare a disegnare uno scenario triste e particolarmente, diciamo, vissuto, suggestivo, perché basta ci metti elementi di chiesa, così parliamo di Eleanor Rigby, il pezzo, il secondo di Revolver, se non sbaglio, e diciamo uno credo di quelli di che, sì. ha, che inaugura quest'era, diciamo diversa, no? ma archi e cose. Si parla di una storia triste, due personaggi presi così a emblema: Eleanor Rigby, che è una che raccoglie il riso dei matrimoni non suoi dentro la chiesa, e il prete Father McKenzie, che diciamo scrive sermoni che nessuno legge. Vuoi cioè, il sottofondo di Pastor fondamentalmente Babbo? persone sole, quindi questo tanto basta, archi, persone sole e ci siamo. Mo il, cioè, questo sembrerebbe tutto, ma la questione è che io volevo sapere come gli è venuto al grande Paul. E cioè, ho ricordato che noi avevamo un altro filone di indagine, e per fortuna in questo caso mi è venuta in aiuto la solita busta anonima consegnata alla redazione di Centocelle Avengers da parte dell'agente dell'FBI che seguiva altre piste, ripeto. Seguiva Michael Jackson fondamentalmente, quindi aveva messo delle microspie addosso a lui. Però Michael Jackson nelle sue frequentazioni c'era pure Paul McCartney, abbiamo già parlato di questo. E in questo caso collateralmente noi andiamo a vedere l'origine di Eleanor Rigby, il pezzo, nelle registrazioni di questa gente. Io adesso metterò le voci modificate per i pentiti, ci metto un po' a trovarle, ma questo è quanto, la storia non mente. Questa party. Oh, oh! Ci voleva proprio una bella passeggiata, Paul. Non essere ironico. Voglio mostrare il panorama alla nostra amica. Ti piace, cara? Com'è bello! Oh, oh! Ti piace la campagna inglese? Bello, bello! Oh, oh! Un po' strana la tua amica. Non farti sentire, Michael. Cara, ho una sorpresa. Vorrei presentarti la mia band. Abbiamo organizzato un picnic. Ti va, cara? Sarebbe meraviglioso. Noi tre formiamo un team eccezionale. Hello? John, Ringo, George. Diamo il benvenuto alla nostra amica Raffa, from Italy. Benvenuta, buondì. Grazie ragazzi, grazie. Namaste, sorella. Grazie, Johnny. Buonasera, buonasera. Hey, welcome. Come sei elegante. Molto bene. Redite del tè, signor McCartney. Grazie, Eleanor. Ti ho mai presentato, Michael? Molti piaceri. Piacere mio, signor Jackson. Perché non si siede con noi? Ci sono i Beatles. Io non so... Non dovrei, sono una donna sola. Oh, coraggio. Oh, oh. Ok. Molto bene. John, dove hai preso quel violino? A un tipo. Oh. Non scaldarti, amico. Questo posto è magico. È triste da paura. Dovremmo scrivere qualcosa di triste. Che ne dite? Vi piace? Bello, bello! Bravissimo! Eleanor! Eleanor! Oh mio Dio! Eleanor! Per l'amor di Dio! Ti ho cercato ovunque! Sì, padre McKenzie. Non ti ho visto in chiesa oggi! Sì, padre McKenzie. C'è bisogno di te, la sacrestia non si pulirà da sola. Vengo subito. Scusatemi, signori. Ah, Eleanor, andiamo. Oh, perdonaci, cara. La signora Rigby ha i suoi problemi. Come donna, le faccio i miei complimenti perché ha saputo veramente dividersi. Oh, Paul, non è giusto. E se posso dire una cosa, io... Direi che lei si merita anche molto di più. Va bene, non ne posso più. Adesso io vado e come sono. Ma sono. Dove vai, cara? Ci vediamo dopo. Aspetta. Oh, oh. È andata verso la chiesa? Oh, che cosa facciamo adesso? Aspettiamo! Wow. Oh, smettila, John, non è il momento. Scherzi, si scrive da sola. Dobbiamo andare a vedere. Oh, in chiesa? È nostra ospite, non intendo lasciarla sola. Pooh. Andiamo, Michael. Cos'è questa musica? Oh, forse è troppo tardi, vieni. Ma cosa? Oh, Eleanor. La vostra amica Raffaella è fortissima. E mi sento ancora a casa mia. Sensazione. Ma la vostra canzone? L'ho inventato io. Proprio McKenzie. Cosa fa? Chiesa moderna. Sì, de oggi, de ieri, de domani, dopo domani. Grazie per essere tutti rincoglioniti. Se va avanti con il padre. Pure l'anche si appunto. Ballo, ballo da capogiro. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, ballo, ballo, mi invento un passo. Che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Porta, porta, portami una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio. Mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica, voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Ballo, ballo, ballo, non mi innamoro. Ballo, ballo, ballo, son prigioniera. Ballo, ballo, ballo, capolavoro. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, ballo, ballo, saliva zero. Ballo, ballo, ballo, sono un guerriero. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, ballo, ballo da capogiro. La redazione è compromessa. Ci sto lavorando. Mi sto quasi abituando a questo scambio di persona. Questa volta andrà bene. Adesso io... Dici sempre così. Smettila. Aiutami piuttosto. Alle 17.47 su Centocelle Avengers è l'ora di un bel brocardo in padella. Ma Fonico Franci, non mi sento in cuffia. Che succede? Un pochino? Sì, aspetta. Meglio? Adesso meglio. Meglio così? Meglio, sì, però non t'alza sempre, ti alzi, metti, muovi, cavi. Problema comunque. Sempre al vostro servizio, ragazzi. Grazie, Alfonico. Bravo, E adesso manderei la sigla. Fanno parte della famiglia dei carciofi. Questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la sorpresa. Mio padre ha portato a casa i tardi. Buonasera, piccoli giuristi! Anche oggi abbiamo un bel brocardo panato e fritto, tutto per voi. Cercheremo di dare una risposta alla domanda: ma si possono usare i marchi famosi nelle canzoni? Beh, Fonico, mi manda il sottofondo? Sempre certo, problemi. Certo. Lo metto subito. Anzi, mamma mia, Metto subito. Ve lo siete mai chiesto, redazione? Si possono mandare i marchi famosi nelle canzoni? Rabarbaro. Ma prima di tutto, partiamo dal brocardo. A comuni observanzia non essere cedendum. E che vuol dire? È una norma di comportamento fondata sul principio che, in caso di dubbio, ci si debba attenere nei giudizi e nelle azioni ai pareri e agli usi condivisi del sensus communis, cioè il senso comune, senza discostarsene troppo. Il tema dell'uso dei marchi nelle canzoni non è nuovo e si è posto in occasione di molti brani di artisti italiani e internazionali, che tra gli ultimi vedono la celebre Rolls Royce di Achille Lauro, lanciata nel 2019 in occasione della kermesse sanremese. Altri esempi sono Gucci Gang di Lil Pump, Gucci Bag di San Giovanni, o l'hanno fatta tutti sta cosa, raga. Gucci è il brand più citato con, pensate, ben più di 41.000 menzioni nella musica internazionale. Ma perché la Gucci Bag è uno status, capito? Ah sì? Se ne parla. Sì, ma provano spesso di mettere questi marchi, magari dei prodotti che utilizzano, cose del genere. Comunque San Giovanni fa schifo. Non ti permette. Altri esempi sono Nikes on My Feet del rapper americano Mac Miller, Versace on the Floor di Bruno Mars, fino ad arrivare alla nostra più famosa, e ci avete pensato tutti, ditelo, Bollicine, che iniziava con Bevi la Coca-Cola che ti fa bene, di Vasco. Secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale italiano, la regola generale è che l'uso di marchi registrati da parte di un terzo è vietato, salvo il caso in cui il titolare del marchio abbia prestato il proprio consenso. Tuttavia, ciò non significa che tutti gli usi non autorizzati di marchi altrui siano necessariamente illeciti, anche se, ragazzi, ricordate che no vuol dire sempre no, non fatelo a casa. Infatti, il successivo articolo 21 prevede che i diritti di marchio di impresa registrato non permettano al titolare di vietarne l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e dall'uso comune, come ad esempio l'uso per indicare il nome di una persona fisica o dei pezzi di ricambio. Ma è più in generale accettato qualsiasi uso dei marchi registrati da terzi per scopi non commerciali. Un'ultima conferma arriva dal considerato 27 della direttiva 2015, che prevede che, cito, l'uso di un marchio di impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. E che vuol dire? Cioè, è consentito menzionare i marchi altrui nel testo o nel titolo delle canzoni se si tratta di un uso protetto della libertà di espressione e del diritto di critica o parodia dell'artista e che non vi è il rischio di confusione per il pubblico rispetto al prodotto o al marchio coinvolto. Ad esempio, nel 2002 la Corte Federale degli Stati Uniti ha affermato che l'uso del marchio Barbie nel brano Barbie Girl che state sentendo nel sottofondo, degli Acqua, pur senza l'autorizzazione della casa produttrice delle famose bambole, fosse lecito, perché giustificato dalla prevalente finalità di critica della società americana, di cui Barbie è chiaramente un'icona, e la Mattel perse così la causa. In Italia è successo anche da noi. Nel 2009 il Tribunale di Milano si è pronunciato a favore di Elio e le Storie Tese per l'utilizzo di una versione modificata del logo della Deutsche Grammophon sulla copertina dell'album Gattini. Secondo il Tribunale... Gattini. Esatto. Secondo il tribunale, infatti, considerata la popolarità della band e il suo noto stile ironico e parodistico, questo uso, nonostante fosse di tipo commerciale, non poteva creare confusione tra gli acquirenti perché, cito, il consumatore medio che opera nel settore in questione appare dotato di intelligenza, diligenza, avvedutezza e cultura tali da far immediatamente percepire il vero scopo dell'operazione. Insomma, chi usa i grammofoni è abbastanza sveglio da capire che Elio scherzava. Per tali ragioni è stato ritenuto che l'uso del simbolo sulla copertina, in chiave parodistica, non pregiudicasse la posizione del titolare del marchio e non arrecasse quindi alcun vantaggio indebito al gruppo di cantanti. La seduta è tolta. Certo, va comunque considerato anche il fatto che l'uso del marchio diventa un problema nel momento in cui causi un danno ingiustificato all'immagine del proprietario. Ogni brand quindi resta libero di decidere quale sia la via migliore per tutelare i propri marchi, in quanto l'ego mediatica, spesso scaturita dalle canzoni, può anche aprire la strada a nuove sponsorship e collaborazioni, come nel caso del povero calciatore Piquet, che pochi giorni dopo l'uscita del brano di Shakira, ragazzi, si è presentato all'allenamento a bordo di una Twingo. A occhio e croce gli è convenuto. Insomma, non importa come se ne parli, purché se ne parli, la tattica Berlusconi. Tra parentesi e fun fact, ammetto che stavolta ho provato a farmi scrivere la rubrica da ChatGPT e a un certo punto mi ha scritto... Sì, ci dovevo provare, ragazzi. A un certo punto mi ha scritto che nel 1984 Veltroni litigò con i Queen perché aveva pubblicato una loro raccolta di pezzi senza permesso. Non ho trovato informazioni su questo su internet, quindi non so come l'abbia pescata sta cosa, e magari non è neanche vera. Però mi fa troppo ridere e immagino la scena di Veltroni che litiga con Freddy, sarebbe una cosa un po' alla Rutelli. Please visit the website, but please visit Italy. Ecco, una cosa del genere, immagino. Vecchi ricordi. Quindi, ragazzi, questa cosa non è propriamente illegale, ma stateci in campana. È interessante, in ultimo, dire che è buono anche pensare al contrario. Cioè, è possibile registrare come marchio il titolo di una canzone? Se avessi l'idea geniale di aprire una nuova app di dating e la chiamassi Senza una donna, Zucchero se potrebbe un po' incazzare? Al contrario di quanto si possa pensare, la risposta è sì. Sì, Zucchero si può incazzare, ma anche che il titolo può essere utilizzato. Puoi registrare il nome di una canzone perché lo scopo della legge del diritto d'autore è quello di salvaguardare l'espressione creativa sotto forma di opera originale. Per essere protetta dal diritto d'autore, un'opera deve essere un'espressione creativa al di là di una nozione, un'idea, un'affermazione. Cose come nomi, frasi o motti non sono considerati di valore originale sufficiente per garantire la protezione del copyright. Una canzone è composta non solo dal titolo, per quanto famoso e iconico, ma da testo, musica e tutto l'ammaradam. Quindi il solo titolo non è abbastanza per essere protetto da copyright nella stragrande maggioranza dei casi. L'avreste detto? No. No. Assolutamente no. Grazie Siri e grazie Superman, che salutiamo. Perché Erode oggi a Superman? Non so che c'ha, sta tutto un po' rosso. Ma perché? Mamma mia, una ci guarda tanto. Strano. Tutto luccicoso, luccicoso, ma che è? Ma mo' che se ricordiamo di salutarlo. Perché? Mica stiamo a carnevale, Vi lascio, ragazzi, con un pezzo dei Korn, il cui titolo è un, attenzione, backronym. Ragazzi, questa cosa l'ho scoperta tipo oggi. Il backronym è un acronimo creato a partire da una parola già esistente. Il nome esteso del pezzo è All Day I Dream About Sex, cioè Adidas. Vai col pezzo. Vecchie memorie. In all of my fantasies, I don't know your name, so what? Let's school in the bee, the only way that I can truly be free from my screwed up reality. So I dream and struck it harder, cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte, Forte, Forte, Forte, Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai, guasta mai, guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta su Radio Forte Centocelle Avengers, quando se n'è andata la prima ora di divertimento, è il momento di fermarci sulle parole, l'importanza delle parole, l'importanza dei testi delle canzoni, ma c'è un'espertona qui che se ne occupa spesso e volentieri. Beh, sì, e quindi le tempo. Passo la parola. Grazie, grazie. Allora, ci occuperemo appunto del cantato delle canzoni con la rubrica Aspettando Mogol, e se il nostro fonico Francesco è pronto, manderei la sigla. Mando subito. Confesso, scendo tutto al bar, sembro tutto anche a, ho speso due K su una scala. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Faccia gira dal contrario, giro col contrario va. Come parla? Sole, cuore, amore. Parole. Una parola ancora. E bentornati su questa rubrica, appunto Aspettando Mogol, la rubrica che analizza i testi ma soprattutto il cantato delle più famose canzoni dei nostri tempi, e anche oggi ci occupiamo di tutti quegli autori di testi che, pur scrivendo magistralmente, hanno difficoltà a trasmettere in toto i propri concetti con le parole, ma sicuramente fanno arrivare lo stesso la loro anima al grande pubblico. Oggi ne dovremmo perdonare uno in particolare, ovvero l'autore di una cosa che ci sta molto a cuore. L'autore è il sommo Biascicone e il brano è la nostra sigla. Antefatto, dovete sapere che sono entrata in possesso degli script del gruppo WhatsApp in cui alcuni elementi della redazione, per varie esigenze, si sono ritrovati alle spalle dell'autore a dover ricostruire il testo del brano. L'occasione era la solita sorpresa al maestro, cioè io, che sarebbe dovuta salire a sorpresa sul palco, ma visto che non si potrà più fare, me l'hanno spoilerata, tanto il maestro sono io, decido io e quindi faccio tutto io. Non si può nascondere niente. No, vabbè, me l'avete dovuto dire perché io vi sto sempre col fiato sul collo. Sì. Comunque, la cosa è andata più o meno così. Leggo direttamente dal gruppo WhatsApp creato appositamente e nel frattempo provate anche voi ad indovinare cosa voleva comunicarci il nostro amico Biascicone con il feat del grande Stick. Non so se abbiamo un contributo. Abbiamo un ehi di Stick? No, vabbè, lo Stick che tutti conosciamo. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il Centocelle Avengers. Franci, però sei un po' lento, cioè, quando ti dicono i contributi, dai. Sembra che lo faccio per la prima volta. È stata colpa mia, l'ho detto a sorpresa, non era programmato. E il grande Stick, anche lui Biascicone per l'occasione. Allora, il gruppo nasce con una richiesta d'aiuto che fa più o meno così. Redazione, datemi una mano. Stavo provando a sbobbinare il testo, ma certi pezzi mi mandano ai matti. Magari voi ve lo ricordate o riuscite a capirli meglio. E ora provate con noi a capire cosa dicono i nostri amici musici. Potente suono, per l'occasione, contributo 1. Allora, qui abbiamo avuto diverse opzioni. La prima è cieli che non vedi. Poi c'è un punto interrogativo. Poi c'è un ciechi, punto interrogativo, che non vedi, punto interrogativo. Voi avete più o meno intuito la soluzione? C'è chi la sa, chi non la sa? Cerchi. Alla fine a cosa eravamo giunti? La soluzione... Cerchi. È germi che cerchi. Non vedi. Attenzione. Ah, ecco, germi. Guarda, ci avrei scommesso mia madre che era cerchi. Ma guarda sto mattacchino di Mogol. C'è chi non era male comunque. Sì. C'è chi che non vedi. Anche cieli comunque. C'è chi che non vedi. I Jedi. Vado avanti. Con i commenti della redazione. Abbiamo avuto un commento appunto che diceva: ma sono da trovare le parole con i punti interrogativi? È meglio della settimana enigmistica. Poi abbiamo un infognati anche tu. auguri, oppure separato la voce dalla musica, ma ancora non capisco. Sì, raga, cioè ho staccato la voce dalla musica, quello col filtro automatico di come si chiama, X-Minus, il sito, e non ci riuscivo comunque, stavo diventando matta. Mi dispiace per il nostro povero Biascicone, vorrei vedere la sua reazione in questo momento. Possiamo andare avanti, maestro, con... maestro sono io, quindi mi metto da sola il contributo 2. Come osi metterti da sola? La corsi da galassia. La corsi da galassia. Ok, allora, qui le opzioni sono la, punto interrogativo, galassia. Poi abbiamo la Corsica galassia. La Corsica, io voto questa, già lo so. La corsa alla galassia. Accorri alla galassia. Elon Musk. E tutto questo si commentava in questo modo. Regà, Stick ha i dubbi nonostante abbia trovato pure il testo cartaceo. Cioè, è bellissima sta cosa. Fantastico. Io da mo' che ci ho rinunciato. Quindi, secondo voi possiamo rimandare il contributo 2? La Corsica Galassia. Ok. La Corsica Galassia. La Corsica Galassia è bellissima. La Corsica Galassia. Secondo me è la Corsica Galassia. Secondo me è a Corsi da Galassia. No, che poi, vabbè, come, ma così. Come tutte ste cose, quando poi tu lo sai qual è la cosa giusta, lo senti e fai, oddio, ma è banalissimo, è vero che dice così. Esatto. Ed è un testo bellissimo, peccato che non riesca ad arrivare a quello che dicevo, però arriva l'anima, ecco. Quindi possiamo andare avanti con il contributo 3. Prego, Francesco. Vado. Questo è difficile. Eh sì, allora qui, qui abbiamo come opzioni in onda sugli schermi danno. In onda sugli schermi punto interrogativo, punto interrogativo. La risposta giusta, se voi non ce l'avete, immagino, insomma, sia molto difficile, è in onda sugli schermi i danni. I danni. In onda sugli schermi i danni. I danni. Attenzione. Una frase profonda, cioè, vuole dire qualcosa. È un testo bellissimo di tutti e due i nostri biasciconi, ma... E abbiamo anche il commento dei redattori, ovviamente. Ma te l'ha detto Stick o l'hai capito tu? Nel secondo caso, grande, con anche il gesto del braccio muscoloso. Ma che ho Stick sulla 2. Esatto. C'era una triangolazione. Giocava con i trucchi. Sì. Sì. Ma la Corsica Galassia... A Corsi da Galassia. Sì, il Berserker, sì. E la Corsica Galassia. E la Corsica Galassia. Possiamo andare avanti con il contributo 4. Con un raggio corto c'è più fatto. Visioni. Con un raggio corto c'è più fatto. Visioni. Mi piace che si sposa un po' con il sottofondo. Non so come mai. Sì, perché va. Sì, perfetto. Qui abbiamo con un raggio punto interrogativo il più fatto punto interrogativo più punto interrogativo. Allora, i commenti sono stati: secondo me il raggio è corto. Poi c'è stato un boh, quello è veramente incomprensibile. Quindi adesso io vorrei far riascoltare un attimo il contributo 4 e farvi sentiamo invece la realtà di quello che dice il testo. Con un raggio corto c'è più impatto. Funzioni. È perfetto questo testo. Se solo fosse per la nostra antenna di Radio Forte, che prendeva appunto solo un chilometro intorno alla fortezza. Grande, non l'avevo mai capito. Con un raggio corto c'è più impatto. Funzioni. Abbiamo veramente scavato, prego. È poesia. Andiamo adesso con l'ultimo contributo. Dopodiché immagino si siano presi tutti quanti un moment per il mal di testa. Prego, Francesco. Questa è stata tosta, perché c'era un riso che... Questa in realtà potrebbe sembrare facile, però iniziavano in questo modo i commenti. Il Piero riso... Dio, quando ti sfugge una parola non la riesci più a sentire diversa. Il pieno riso, il fiero viso. Poi abbiamo un oh Maronna, boh, capite perché ho chiesto a Gabri di rubare il testo? È stato e fatto poi, anche questo. All'improvviso, l'eroina Gabri. Ho fatto il pieno, virgola, riso di quello che si poteva. Gliel'ho estorto in maniera assolutamente vaga. Era abbiamo veramente avuto il riso. Un applauso a c'era la virgola, ma guarda te. La virgola cambia tutto comunque, eh? Perché è la punteggiatura che è difficile da cantare per questi poveri cantanti. Non ho nessuno scopo, e sono felice. Non ho nessuno, scopo e sono felice. Esatto. E questa è la prossima sigla che faremo. In conclusione, i messaggi di supporto gli uni agli altri in seguito non sono assolutamente mancati. Le pacche sulle spalle per l'ottimo lavoro svolto, inutile ma ottimo, appunto, non sono mancate. Ma qui c'è da commentare anche come è stato concluso e chiuso questo gruppo. Allora, abbiamo un... Voi quanti ne avete indovinate? Ah, proprio punteggione. Sì. Cioè, hai fatto le statistiche? Nessuna. Poi abbiamo chi ha vinto. Poi abbiamo, appena finite potete iniziare con i testi degli Happy Noise, gruppo storico in cui cantava il nostro Biascicone. E ancora, oh, quasi tre ne ho prese. E poi, in conclusione, fatece un'app, Biascicone, il nuovo gioco gratuito per iOS e Android. Quei punti interrogativi. Quei punti interrogativi da risolvere. Ottimo suggerimento. È un ottimo, ci giocherei. Bene, io vi saluto e vi lascio ascoltare il brano completo parafrasando Jurassic Park, un film che io non ho mai visto, di cui non so assolutamente niente, però non so perché conosco le battute a memoria. Ma prima o poi te lo devi vedere però. Vabbè, ho capito, ma sono stati tutti una vita. Cioè... Vabbè, sti dinosauri non mi fanno impazzire comunque. No. E la citazione è: non guarderete più la sigla con gli stessi occhi. Mentre guardo, come fare a stare fermo e immobile guardando loro negli occhi. fai siamo di nuovo me. Dentro. Riprogrammo il satellite. Toc, 3, toc. Ci 2, sentiamo. 1. Stai ascoltando Radio Forte. 100 Rangers. Ed eccoci rientrati in voce. Adesso ragazzi mettetevi comodi perché quel momento che vi farà fondere le cervella. Stiamo per lanciare la rubrica, quella appunto che io tratto quotidianamente, gli argomenti che tratto quotidianamente, è quello che riguarda la matematica, la rubrica sulla matematica. Allora, se siamo pronti con la sigla, io lancerei la sigla di Welcome to Hotel Hilbert. Vai maestro. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Oh, bene, con questa musichetta di sottofondo molto tranquillizzante, tuffiamoci nel mondo, come di consueto, nel mondo del sapere matematico. E la matematica, che non sempre, ahimè, è semplice, non è né semplice da comprendere, non è semplice da spiegare, e non a caso quel gran geniaccio di Einstein diceva se non lo sai spiegare in maniera semplice, allora non l'hai capito abbastanza bene. E vediamo allora se riuscirò nel mio intento di tramandarvi qualche nozione matematica, ricorrendo anche all'aiuto di un piccolo amico piumato, ma fra poco lo incontreremo, e insieme ci cimenteremo in questa sfida parlandovi dello straordinario rapporto che c'è tra la musica e la matematica. È un rapporto assai antico, quanto indissolubile e assai affascinante. Partiamo proprio dalle origini, quando la musica, insieme alla aritmetica, alla geometria e alla astronomia, faceva parte del quadrivium. Sapete tutti cos'è il quadrivium, vero? Certo. No. È la base, Superman, la base del sistema del sapere medievale. Numeri, forme, stelle e musica sono praticamente... Numeri. Grazie. L'ha detto. Lo dico sempre. Scusate. È proprio romana de Roma. Cioè, dicevo numeri. Scusate, numeri. Oh, niente. Okay. Forme, stelle e musica sono praticamente delle categorie che stanno alla base di tutto lo scibile umano. Esse infatti erano considerate umano. Propedeutiche. Non la prendo in giro sempre, però. Erano considerate propedeutiche all'insegnamento della filosofia e della teologia. Non c'è da stupirsi quindi che la figura storica di riferimento sia proprio quel cervellone di Pitagora, padre della musica e della matematica, il capostipite di tutti gli sgobboni. E sì, perché senza gli sgobboni e i cervelloni la musica non esisterebbe, vero Paverino? Vieni, trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Sì, il padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per Benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. Sentito? Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda. Ecco che è successo proprio quello che... Non è successo niente in realtà. Esattamente niente. L'antica Grecia ai tempi di Pitagora. Cioè lo dobbiamo solo risentire. La risentiamo, che problema. Franci, però veramente, cioè, ogni tanto farne una giusta però, Non lo so che mi succede. Devo chiamare un altro fonico in aiuto. Vabbè, ripassiamo. Più impensati. Mi devo rimettere al mixer. Attento. Per prima cosa ci vuole una corda. Tendiamola per Benino, pizzicala. Ora dividiamola a metà, pizzicala di nuovo. comunque ora ti riconosco. Cartoni. Sentito? E matematica, finalmente. Lo stesso tono, ma un'ottava più alta. Dividiamo il resto. E poi ancora. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda. Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Ecco, grazie al nostro simpatico amico piumato, quindi abbiamo visto come la matematica è stata fondamentale, ha gettato proprio le basi della musica, tanti elementi, tante conoscenze che poi sono state sviluppate in seguito. E abbiamo sentito anche come ci racconta dell'invenzione del monocordo, questo strumento appunto ad una sola corda, che fu inventato in Grecia nel VI secolo a.C. proprio da Pitagora e impiegato per gli studi sull'acustica. Bene, e quindi ora che siamo tutti membri onorari della scuola dei pitagorici, grazie anche all'intervento di Paperino, possiamo anche accedere ad un altro segreto che si cela proprio nella stella a 5 punte, che era proprio il simbolo dei pitagorici, il pentalfa. E tralasciando il fatto che esso poi sia stato associato al satanismo e alle tradizioni massoniche di ispirazione pitagorica, appunto, quello che ci interessa è che quel genio di Pitagora capì ben presto che nel pentalfa, quindi all'interno della stella a 5 punte, che si chiama così proprio perché è composto da 5 lettere alfa intersecate tra loro, nel pentalfa si cela qualcosa di perfetto, ossia la sezione aurea. Me lo faccio da sola. Wow. Non abbiamo più. Non capisco. Il nostro Superman si è assentato, è andato un attimo in bagno. È volato via con il mantello. Ma oggi sta trafficando una cifra, Superman. Sta avanti e indietro, non si capisce che sta facendo. Vabbè, è un po' in ansia. Sì. Dicevo della sezione aurea, definita appunto come quella proporzione divina, un archetipo che ritroviamo e riconosciamo non solo in molti elementi della natura, pensiamo all'armonia di certi fiori, negli alberi, nelle conchiglie a spirale, ma ritroviamo anche nelle arti. E tornando alla stella a 5 punte, infatti vediamo che in essa si origina il rettangolo aureo, così chiamato proprio perché ha i lati che rispettano la proporzione aurea. Adesso si può originare tante volte all'interno della stella a 5 punte, e questa fu una scoperta sensazionale. Per gli antichi greci il rettangolo aureo era il principio matematico della bellezza, ecco perché lo ritroviamo nell'architettura classica e in primis proprio nel Partenone, che è il più celebre monumento dell'architettura ellenica, che contiene appunto molti rettangoli aurei. E questa figura geometrica affascinante, proprio perché può ripetersi matematicamente un infinito numero di volte, la ritroviamo anche tanto nella pittura. A me ha fatto pensare subito a Mondrian, l'autore di numerosi quadri astratti in cui domina proprio l'uso di queste figure geometriche, e in questi suoi quadri è ben visibile quindi l'impostazione artistica che basa di questo pittore, appunto, che basa molti dei suoi dipinti sull'accostamento di quadrati e rettangoli aurei. Bene, nel Rinascimento il matematico italiano Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, più comunemente conosciuto come Fibonacci, creò la celebre sequenza di numeri ad essa correlata, che porta appunto il suo nome. E in questa serie ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti, da 0, 1, 2, 3, fino ad arrivare a 21 e così fino all'infinito. Piano, che non, sto segnando. Stai prendendo appunti? Bravo. Non capisce mai niente in matematica. È così che dovete fare durante le mie lezioni. Non so io se... mi sono proprio perso. Se interessa. Interessa. Bastoni! Ecco, fu così che la proporzione aurea divenne molto popolare tra gli artisti dell'epoca. Per quel che più ci interessa, divenne molto popolare proprio fra i musicisti. Molti musicisti infatti sono stati conquistati dalla magia di questi rapporti matematici, e numerosi grandi compositori del passato ne hanno fatto uso, largo uso, nelle loro opere. Li ritroviamo infatti nei ritmi e nelle strutture musicali, nella disposizione degli accenti all'interno dei movimenti e nel rapporto tra questi ultimi. Molti esempi mostrano come la proporzione delle varie parti di un'opera è spesso impostata nel rapporto 8 quinti, 8 a 5, vicino al numero fi. È facile trovare un riscontro di questo tipo in alcune opere di Bach, di Mozart o di Beethoven, ma oltre che nei canoni formali del linguaggio musicale, è proprio negli atomi stessi della musica, ossia nelle note, che incredibilmente si può ritrovare il rapporto aureo. Come ci spiegava anche prima il nostro caro, diciamo, Paperino, Pitagora nella versione cartoon, e nell'ottava, l'unità che ci parlava appunto della, di una nota e della sua ottava, e che si può riscontrare pizzicando le corde, e nell'ottava appunto l'unità fondante della melodia e dell'armonia, e nell'ottava vediamo i numeri di Fibonacci che praticamente spuntano ovunque. E venendo ai tempi più recenti, oggi nella la musica rock, specialmente quella del movimento progressive, si è lasciata conquistare dalle auree proporzioni, e un esempio molto significativo è il coraggioso brano Third of Fifth dei Genesis, che contiene a soli di 55, 34, 13 battute interamente basati su numeri aurei. E neanche la band più rock di sempre, Deep Purple, è rimasta insensibile al richiamo di questi numeri d'oro, che costellano ad esempio il celebre brano Child in Time, così come anche l'album Octavarium dei Dream Theater e il pezzo Lateralus dei Tool sono anch'essi concepiti sulle sequenze fibocciane. Ah, ecco perché l'hai messo nella tua sigla quel pezzo. Esatto. Sì, l'è fissata coi Tool, non glieli levi proprio. No, infatti. No, quindi scoprendo la sezione aria, questo rapporto aria, abbiamo quindi apprezzato, possiamo apprezzare cosa abbiano in comune il Partenone, ma come abbiamo visto, ma anche la Gioconda e... anche la cattedrale di Notre Dame, che contiene in sé rettangoli auri, e financo il logo della Apple. Tutte queste cose quindi hanno in comune quella magia delle proporzioni, e la vita stessa, la natura tiene conto di questa magia, anche se spesso diciamo non sempre è facile, non siamo tutti matematicamente perfetti, e come scusaci, ci ricorda infatti sempre il nostro caro amico Paperino. Ah ah ah, Paperino. No, tu sei un po' diverso. Ah, temo proprio che non ce la farai. Beh, non tutti siamo matematicamente perfetti. Bene, non tutti siamo matematicamente perfetti, ma sicuramente la matematica, come diceva Galileo, è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo. E allora andiamocene un po' a spasso per questo nostro bellissimo universo con un brano che ho selezionato per voi, che chiaramente non poteva che essere dei nostri amati Beatles, e in continuità grazie. Che abbiamo sentito prima, vai col pezzo maestro, con Across the Universe dei Beatles. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Nothing's gonna change my world. winging through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. E di nuovo in diretta a gamba tesa, come se non ci fosse un domani, su Radio Forte 100 Celle Avengers, in questi ultimi 30 minuti di divertimento, nei quali ci dedichiamo a cosa? Beh, qua c'è Francia al crimine. Ha deciso. Adesso si passa al crimine. Oggi vi boicotto. C'è la nostra Viola, esperta di crimine. Molto bene, e la sua rubrica ha anche una sigla. Viola comunque come al solito non è venuta, però ci tiene molto alle sue rubriche, quindi lanciamo subito senza indugio CSI, la sigla di CSI 100 celle. Alle ore 16 di domenica 24 agosto io ho ucciso la signora Augusta Terzi con fredda determinazione. Si ricorda quella signora in via del Tempio che è stata uccisa? Beh, l'ho uccisa io. Sono un assassino. Mi guardi, non capita tutti i giorni di vedere a 20 centimetri di distanza la faccia di un assassino. Ciao cari amici, chi vi parla è la vostra Viola, dalle retrovie di un posto prodotto. Oggi tratterò di criminali, menti criminali, e parlerò di un noto, notissimo criminale, e diciamo della sua vita, un po' di curiosità e niente, fino alla morte. Il noto criminale è Charles Manson. Charles Manson nasce il 12 novembre del 1934 a Cincinnati e muore il 19 novembre del 2017 a Bakersfield. Diciamo è un notissimo criminale statunitense, diventato famoso come il vero mandante di due fatti di sangue famosi nella storia degli States, ossia quello dell'eccidio di Cielo Drive, in cui furono assassinati Sharon Tate e quattro suoi amici, e quello ai danni di Lenora Bianca e di sua moglie. Charles Manson nacque da una donna di nome Kathleen Maddox, che conduceva una vita sregolata. Infatti stesso Manson dichiarò che ella fosse una prostituta, e lo ebbe a 16 anni, e la ragazza dovette rivolgersi infatti all'autorità giudiziaria, che riconobbero in un certo colonnello Scott il padre del bimbo. Dopo aver convissuto per un certo periodo con un tale William Manson, da cui appunto Charles ricevette il cognome, Maddox continuò nella sua vita irregolare, compiendo anche reati gravi che le procurarono la carcerazione per qualche anno. Durante il periodo della detenzione, il figlio, che all'inizio venne affidato temporaneamente a dei vicini di casa, andò ad abitare con degli zii in West Virginia. Poi nel 1942 seguì la madre nelle sue peregrinazioni, pernottando in vari motel fino al 1947, anno in cui venne inserito in un istituto per l'infanzia dell'Indiana. Dimostratosi ribelle alle regole in vigore della scuola, scappò, cominciando a compiere furti d'auto e rapine nei negozi, reati minori per i quali trascorse qualche settimana a Indianapolis in un istituto di correzione. Dopo altri crimini, un fallimentare tentativo di inserimento nella città dei ragazzi, venne mandato all'Indiana School for Boys. Fuggito anche da quell'istituto di rieducazione, Manson compì il suo primo reato federale a 16 anni, trasportando oltre il confine un'auto rubata, e ciò comportò per lui la detenzione in una serie di riformatori, dove appunto ci furono altri vari tentativi di fuga e aggressioni, alternati a periodi di buona condotta. Al Natural Bridge Honor Camp perse l'opportunità della libertà condizionata per avere sodomizzato un giovane detenuto, puntandogli una lama alla gola. Ottenuta la libertà condizionata, a metà del 1954 tornò a vivere dai parenti in West Virginia, lì conobbe un'infermiera, Rosalie Jean Willis, con cui si sposò. Assieme a qualche lavoretto regolare come benzinaio e parcheggiatore, continuò la propria carriera delinquenziale insistendo nel furto di auto e nel trasporto oltre il confine. Per il reato federale venne arrestato in California, ma le capacità oratorie e di convincimento di Manson e la condizione della moglie che lo accompagnava, che era in stato di gravidanza, riuscirono ad ammorbidire lo psichiatra che lo esaminava e che suggerì al giudice la libertà vigilata, misura a cui il malvivente non si sottopose, dileguandosi per l'ennesima volta. Riacciuffato, venne spedito nel penitenziario di Terminal Island per scontare una pena di 3 anni. In questo penitenziario venne a contatto con detenuti da cui, diciamo, apprese vari metodi per avviare, diciamo, la sua carriera rivolta alla prostituzione, conoscenze appunto che Manson poi mise a frutto in un periodo di libertà in cui reclutò alcune ragazze per diventare appunto il protettore. Denunciato per questa attività, il 27 aprile 1960 Manson fu incriminato per trasporto di donne da uno stato all'altro ai fini di prostituzione. Insieme alla falsificazione di un assegno, al furto di auto e alla violazione delle norme sulla libertà vigilata, dopo 2 mesi fu condannato a scontare 10 anni di reclusione nel penitenziario di McNeil Island nello stato di Washington. Durante gli anni trascorsi in questo carcere si dedicò accanitamente allo studio di massoneria, necromanzia, magia nera, esoterismo, motivazione subliminale e ipnotismo. Imparò anche a suonare la chitarra e nell'ultimo periodo di detenzione si dedicò in modo ostensivo alla musica e alla composizione di canzoni. Manson fu rilasciato su cauzione nel marzo del 1967. Una volta uscito, decise di divenire un musicista, mettendo a frutto le capacità musicali acquisite in carcere, e dichiarò in seguito di essere stato un grande fan dei The Beatles. In tempo per la Summer of Love si trasferì a San Francisco, dove raccolse intorno a sé un gruppo di giovani, in particolare di sesso femminile, soggiogati dal suo carisma, dalla sua chitarra e dalle sue capacità oratorie. Si unirono anche poi dei ragazzi e nel 1967 questo gruppo, diciamo, si mise a vagabondare in un autobus scolastico dipinto di nero. Della durata di un anno e mezzo, diciamo, questi ragazzi girovagarono a bordo di questo bus. Da prima giunti a Mendocino, si spinsero più a nord fino all'Oregon e allo stato di Washington. Poi il mezzo invertì la rotta, dirigendosi a sud, attraversando Messico, Nevada, Arizona e New Mexico, prima di rientrare in California e insediarsi in zone isolate che circondavano Los Angeles. Questo gruppo prese il nome di The Family, la famiglia, o anche The Manson Family, sebbene Manson abbia sempre negato di aver dato gli stesso quel nome al gruppo. Questo nome infatti fu imprecisamente utilizzato da Vincent Bugliosi e dalla successiva onda mediatica per identificare in generale le persone che vivevano allo Span Ranch. La comune raggiunse il numero di circa 50 persone, molti di loro erano ragazzi che avevano avuto una vita dura come quella di Charles, con problemi familiari e spesso di disattamento sociale, e mentre altri provenivano da famiglie ricche. Manson era da questi considerato come un leader religioso, oltre che morale. Alcuni membri della comune credevano che Manson fosse la reincarnazione sia di Gesù Cristo sia di Satana messi insieme. Nei primi mesi del 1969 Manson diffuse tra i suoi discepoli la paranoia, parlando di un futuro scontro interrazziale tra bianchi e neri, al termine del quale la famiglia, rimasta nascosta in un mistico pozzo nella Valle della Morte, sarebbe stata chiamata ad assumere il comando supremo. Le persone che vivevano al ranch sopravvivevano grazie ai soldi dei personaggi famosi, come ad esempio Dennis Wilson dei Beach Boys, che prestavano appunto a Charles Manson. In momenti di carestia invece raccoglievano cibo commestibile dalla spazzatura, commettevano furti e spacciavano droga che circolava abbondantemente a Hollywood e tra le comunità hippie. Era una vita dedita alla musica, al sesso e alla droga. Manson fondò anche un movimento ambientalista chiamato Air Trees Water Animals, che si batteva per salvaguardare la natura e le creature della quale appunto facevano parte. Charles Manson voleva diventare un musicista famoso come i suoi idoli e nell'estate del 1968 tentò di realizzare il suo sogno musicale recandosi in uno studio discografico di Los Angeles con il supporto economico sempre di Dennis Wilson, che era il batterista dei Beach Boys, che aveva conosciuto dopo che questi aveva dato un passaggio a due ragazze della famiglia che facevano autostop. Un brano di Charles Manson fu riarrangiato dai Beach Boys e fu inserito nell'album 2020 del 1969 con un nuovo titolo, Never Learn Not Love, e anche i testi, diciamo, furono un po' modificati e ci fu un differente bridge. Il 9 agosto del 1969, meno di due settimane dopo l'omicidio di Gary Hinman, commesso da Bobby Busleil, che era uno appunto che faceva parte della famiglia, Manson pianificò e ordinò un'intrusione a Cielo Drive, un ricco quartiere di Los Angeles. L'obiettivo era di penetrare nella villa di proprietà di Terry Melcher, artista e produttore musicale, nonché figlio di Doris Day, che aveva inizialmente espresso interesse nei riguardi di alcune canzoni composte da Manson, salvo poi rifiutarsi di scritturarlo per la Columbia Records. Manson si era recato in quella villa in precedenza col desiderio di incontrare nuovamente Melcher, ma era stato allontanato da un fotografo amico della Tate che gli aveva rivelato che la villa adesso era abitata da Roman Polanski e Sharon Tate, attrice e moglie del regista. Il motivo principale alla base degli omicidi di Tate la Bianca era di commettere una serie di omicidi che avrebbero convinto la polizia che questo Bobby Busleil non aveva ucciso Gary Hinman. L'omicidio infatti era avvenuto solo pochi giorni prima, per cui Charles, detto Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian si erano allontanati dallo Spanas Ranch per aiutare Bobby, che era stato arrestato. La notte in cui si consumarono gli omicidi, Polanski non era presente, si trovava infatti a Londra per motivi di lavoro. Aveva appena finito di girare Rosemary Baby. Manson in quel momento era al ranch, mentre altri adepti della famiglia si stavano dirigendo presso la villa. Questi si diressero verso la villa armati di coltelli, con una revolver e una corda di nylon lunga 13 metri. Giunti sul posto, in quattro tagliarono i fili del telefono per impedire che venisse dato l'allarme, con l'eccezione di Linda Kasabian, che doveva coprir loro le spalle. Gli altri tre scavalcarono la recinzione che circondava il parco della villa. In quel momento si accingeva a uscire in macchina Steven Parent, un giovane in visita al guardiano della villa, che venne ucciso immediatamente al colpo di revolver. Entrati nella villa, i membri della famiglia non ebbero nessuna pietà per i presenti. Il secondo a morire fu il parrucchiere Jay Sebring, che implorò di lasciare in vita Sharon Tate in quanto incinta, ma fu ferito con un colpo di revolver alla scella e finito con una serie di coltellate. Ci fu una successiva vittima, che fu accoltellata appunto da Susan Atkins. Stessa sorte anche per Abigail Folger, accoltellata ripetutamente. L'ultima vittima fu Sharon Tate, di 26 anni, incinta di 8 mesi. Con uno straccio intriso del sangue dell'attrice, la Atkins scrisse sulla porta da cui avevano fatto irruzione pig, cioè maiale. Il termine viene usato in modo spregiativo nei confronti dei poliziotti. Una curiosità è che anche pig è il nome di una canzone dei The Beatles. Sullo specchio del bagno venne scritto Helter Skelter, che è espressione inglese che indica i grandi scivoli di forma elicoidale del Luna Park e che nel gergo familiare significa confusione o alla infusa, interpretata da Manson come arrivo del caos e fine del mondo. Anche questo è il titolo di una canzone dei Beatles. Non ci furono sopravvissuti alla strage. I massacri dell'organizzazione non si placarono e il giorno seguente vennero uccisi l'imprenditore Leno La Bianca e sua moglie Rosemary. I due furono colpiti da più di 40 colpi alla testa con una forchetta e il cadavere di Leno La Bianca fu ritrovato con un forchettone conficcato nello stomaco. Su una parete interna venne scritto Death Pigs, morte maiali, col sangue delle vittime, e sul frigorifero in cucina furono tracciate le parole Helter Skelter con una svista ortografica. Un'altra vittima di Manson fu l'insegnante di musica Gary Hinman, che qualche mese prima aveva cacciato la family. Anche Hinman venne accoltellato sulla parete e fu tracciata anche qui la scritta Political Piggy, ovvero porco politico. Tali scritte vennero ordinate da Manson ai suoi seguaci per cercare di depistare le indagini e far accusare dell'omicidio i neri. L'ultimo assassino attribuito alla Family fu quello di un membro stesso della setta, Donald Shee, detto Shorty, colpevole di aver sposato una donna nera e di tramare lo sfratto della banda di Manson dal rifugio dello Span Range, ma più probabilmente per essere a conoscenza di elementi che riguardavano le due stragi di Tate e la Bianca. Il 26 agosto del 1969, dopo l'omicidio, il suo cadavere fu fatto a pezzi e questi vennero impacchettati e seppelliti nel letto di un torrente. L'attività criminosa della famiglia continuò incontrastata per altri mesi, fino alla conclusione delle indagini di Vincent Bugliosi, avvocato di origini italiane. Testimone chiave nel processo fu Linda Casabian, la ragazza che ricoprì il ruolo di Palo la sera del 9 agosto del 1979, che per evitare l'incarcerazione testimoniò contro Charles Manson, che fu così arrestato per quello che viene ricordato come il caso Tate la Bianca e venne accusato di essere il mandante degli omicidi. Nel 1970 cominciò il processo contro Manson. Egli si presentò prima con una croce cristiana disegnata e poi con una X incisa sulla fronte. In seguito, dopo diversi anni di prigione, Manson stesso modificò l'incisione sulla fronte, facendola diventare una svastica. Il processo è entrato nella storia degli Stati Uniti per la sua incredibile lunghezza. Il solo dibattimento preliminare durò quasi un anno. Manson dichiarò sempre di non essere responsabile degli omicidi del 69 e Susan Atkins invece rivelò che Manson aveva programmato di uccidere in seguito nomi noti dello show business come Liz Taylor, Steve McQueen, e Richard Burton e Frank Sinatra, pur non avendo prove materiali a sostegno. Il 29 marzo del 1971 il processo si chiuse con la condanna a morte di tutti i componenti della famiglia. Nel 1972 lo Stato della California abolì la pena di morte e Manson e i responsabili degli omicidi, spostati dal braccio della morte al carcere, la loro pena venne commutata in ergastolo. Il 25 maggio del 2007, presso il carcere di Corcoran, l'undicesima udienza richiesta da Manson venne fatta appunto per ottenere la libertà vigilata e che fu poi respinta. All'età di 72 anni, dei quali 42 trascorsi in carcere, fece dichiarare alla stampa tramite il proprio avvocato che nel 2012 avrebbe nuovamente presentato la sua domanda di rilascio. Anche questa dodicesima richiesta di scarcerazione anticipata è stata rifiutata nell'aprile del 2012 dalle autorità della California. Nel settembre del 2012 apparve online una lettera di Charles Manson indirizzata a Marilyn Manson. Non risulta che vi sia stata alcuna replica da parte del cantante. Il 19 novembre del 2017, dopo essere stato ricoverato pochi giorni prima in seguito ad un'emorragia intestinale, Manson morì a 83 anni al Kern Country Hospital di Bakersfield. Allora, prima di salutarvi, vorrei parlare anche di uno, diciamo, dei pezzi che appunto poi verrà messo dopo la rubrica, Look at Your Game Girl. È un brano musicale appunto composto da Charles Manson, incluso nel suo album Lie, The Love and the Terror Cult, pubblicato nel marzo del 1970. È una ballata folk rock e psychedelic rock della durata di 2 minuti. Manson canta: pensi di amare, baby, ma tutto quello che stai facendo è piangere. Sono reali questi sentimenti? Narrando la storia di una donna mentalmente instabile che sta giocando con un folle gioco pericoloso e che cercando l'amore ha trovato invece soltanto tristezza. Secondo Alex Anderson di AllMusic, Look at Your Game Girl incarna l'approccio fondamentale di Manson di influenzare le giovani donne prendendo di mira le loro debolezze e costrizioni socialmente imposte e implicando che la sua strada sia migliore e più liberatrice. Questo è pericoloso considerando il suo notevole talento per il controllo mentale. Generalmente Manson trasse ispirazione dai Beatles e, discutendo della musica di Manson, Mark Savage della BBC News definì il suo modo di suonare la chitarra elementare e i suoi testi disorganizati. Look at Your Game Girl era una delle canzoni contenute nel nastro che Manson aveva spedito a varie case discografiche quando era un aspirante musicista hippie, divenuto famoso per gli omicidi appunto di Tate la Bianca. Il suo nastro fu commercializzato nell'album Lie del 1970, prodotto da Phil Kaufman, che aveva conosciuto Manson in prigione, e pubblicato dalla Awareness Records. Diciamo che questo brano venne poi preso appunto, cioè riprodotto, rifatto da Axl Rose, il frontman dei Guns N' Roses, che venne a conoscenza di questo brano appunto da suo fratello mentre giocavano a un quiz musicale. Tuttavia Marilyn Manson scrisse nella sua autobiografia di aver incontrato Rose nel backstage di un concerto degli U2 e di avergli parlato della sua canzone My Monkey, che include estratti presi da Lai, The Love and the Terror Cult. Rose commentò di non aver mai sentito nominare Lai e Manson lo incoraggiò ad ascoltarlo. Sei mesi dopo i Guns N' Roses pubblicarono una reinterpretazione di Look at Your Game Girl nell'album The Spaghetti Incident del 1993, un disco di cover di brani punk rock. In seguito Marilyn Manson disse con rabbia appunto che ormai era diventato di moda tra i musicisti includere frammenti riferimenti a Charles Manson nella loro musica. Circa nello stesso periodo Rose cominciò a indossare magliette con la faccia di Charles Manson e la scritta Charlie Don't Surf. Rose disse che gli erano piaciuti musica e testo e che voleva che anche altri ascoltassero il pezzo. Aggiunse inoltre come ritenesse ironico il fatto che una canzone sulla pazzia fosse stata composta da Charles Manson, qualcuno che dovrebbe conoscere la complessità interiore della follia. La canzone fu inclusa nel disco per volontà di Rose, nonostante il parere contrario degli altri membri della band, come traccia nascosta al termine dell'album. Axl Rose e Dizzy Reed alle percussioni sono gli unici due membri dei Guns N' Roses che suonano nella traccia, mentre la chitarra acustica è suonata da Carlos Boy. Cari amici, e quindi sono arrivata alla fine di questa rubrica e spero, ecco, vi sia piaciuta e niente, quindi vi saluto con appunto il pezzo di scritto da Charles Manson ma riprodotto dai Guns N' Roses, Look at Your Game Girl. Ciao. There's a time for living, time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is just crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad illusion, living in that confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? Sad, sad game. Mind game. Just to say your love's not enough. Even you can't be true. Oh. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Cell Avengers. Ma che stai a fare? Ma che hai preso? Che hai fatto? Oh, ma che succede? Ma sei impazzita? Ma no, ma non lo quello. Tocca. Guarda che è pericoloso. No, aspetta. Ma non farlo. Ma no, quello è il quanto. Aspetta. Quanto? Che quanto? Superman non ha nessun guanto. Superman intanto sei? Se n'è andato, non ho capito perché. Però ho visto che stava trafficando di là. Mi sembra di ricordare qualcosa, tipo. Aspetta. Oddio. È stato tipo un cataclisma in redazione. Oddio, tipo le funzioni. Io odio i Beatles. Ma, i numeri. Ma io amo i Beatles. Il Nord. L'heavy metal. Ma io di matematica non capisco un cazzo. Nemmeno io. Ma neanche io di giurismo. Oddio, ma cosa abbiamo mandato in onda? È tutto... Oddio. Forse toccherà riascoltarci. Cosa penseranno i nostri radioascoltatori? Vabbè, tanto c'è il podcast. Era solo per sentire la sua voce. Ciao. Ciao, eccolo Iron Man. Finalmente sei tu. È tornato se stesso. Ah, Iron Man. Ma che è successo? Ah, Iron Man. Grazie al cielo. Quindi c'è una cosa dritta che possiamo fare in questa trasmissione oggi per ma finire. Già che siamo tornati noi stessi. È successo in anticipo, non volevo. Io sto ancora con le mani su un mouse morto. Un computer spento. È tutto tornato alla normalità. Esatto, è tutto per pochi secondi torna alla normalità, tornati, poi ragazzi. Moriamo di nuovo. Siamo grazie alla gemma ma della giusto potente, il tempo di dire Virginia. Che abbiamo vissuto questa realtà nella dimensione parallela, è stato bello, speriamo vi sia piaciuto. Adesso che tutto è tornato come è di consueto, consueto, allora come di consueto mandiamo l'ultima rubrica, che è Artifizi, dal nostro angelo che ringraziamo e salutiamo. Come è allora, norma. Come è norma, finalmente tutto si è ripristinato. Una rilassatezza così che non ricordavamo. E allora vai con la sigla di Artifizi, vai maestro. Grazie angelo, grazie angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie angelo, grazie angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie angelo, grazie angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Buon pomeriggio a tutti, siamo alla pillola Artifizi. Oggi trattiamo un argomento che si discosta dai temi che abbiamo trattato finora, tutti confluiti un po' in quel contenitore costituito dal rapporto tra arte e committenza. Ci scostiamo un po', usciamo da questo contenitore, salvo tornarci poi eventualmente in altre occasioni, per parlare, continuare a parlare di Caravaggio, e non tanto, non solo di Caravaggio pittore, ma di Caravaggio uomo. Caravaggio uomo accusato di omosessualità. Ora, per fortuna stiamo andando verso tempi nei quali la omosessualità non è più ritenuta né un reato, né un peccato, né un vizio, né una malattia. Ci è voluto un bel po' di tempo, ma insomma le cose stanno cambiando. Caravaggio, che era nato nel 1571, viveva in una Roma cosmopolita. Lui particolarmente frequentava gli ambienti, diremmo, bassi, almeno per i primi tempi, ambienti popolati da prostitute, ladri, gentaglia che viveva alla giornata. Probabilmente sarà capitato che avrà avuto anche rapporti con qualche ragazzo trovato lì, insomma, per strada. Quello che dà fastidio è che tutto questo venga da alcuni ritenuto come sintomo di una sua omosessualità. E afferma questo, non ha nei confronti della omosessualità l'atteggiamento di cui parlavo prima io, cioè dire quello verso cui stiamo andando. L'omosessualità non è nulla di negativo ed è un modo di essere al pari dell'essere biondo, bruno, alto, basso. Non è di questo parere uno dei critici più scalmanati dei nostri tempi, Vittorio Sgarbi, che in tanti suoi scritti ribadisce il concetto, e da ultimo in un video che circola in rete, e secondo Sgarbi Caravaggio la sera usciva, andava per Roma e reclutava ragazzi di vita, dice lui, così come faceva Pasolini. Ora, sì, Pasolini era omosessuale, ma questo non toglie nulla alla genialità dell'uno, dell'altro, di tutti coloro che hanno una loro vita sessuale che non si conforma a quella della maggioranza, salvo poi a verificare se questo sia vero o meno. Sgarbi porta a riprova della sua tesi il fatto che i primi dipinti di Caravaggio rappresentano più volte degli adolescenti, dei ragazzetti, dei ragazzi di vita, e io adesso dirò i titoli di questi dipinti, sicuramente qualcosa vi diranno. C'è il Fruttarolo della Galleria Borghese, quel giovane che ha una cesta di frutta in mano e guarda diretto lo spettatore, ha il collo e le spalle seminude, uno sguardo ammiccante, una bocca socchiusa, pelle porporina. Più di lui il Bacco degli Uffizi. Il Bacco degli Uffizi ha sulla testa una corona di foglie, ha una coppa di vino che offre a chi guarda la tela con la mano sinistra, e con la mano destra sembra che stia sciogliendo il nodo della sua tunica. Anche lui ha metà dorso è scoperto, sembra che stia sciogliendo metà della tunica per offrire anche se stesso a chi guarda la tela. C'è l'altra opera, Il liutaio. Il liutaio, ci sono due versioni, una è a New York, al Metropolitan, e l'altra è all'Ermitage a San Pietroburgo. Il liutaio probabilmente è stato usato come modello Pedro Montoya, che era un giovane castrato che abitava nello stesso palazzo in cui abitava Caravaggio, cioè presso il Cardinale del Monte. Un'altra tela che Sgarbi pone a base della sua tesi è i musici. Sono quattro giovani, abbastanza nudi, ma sembra la parte superiore del corpo, e in questa tela si riconoscono di nuovo sia Montoya e sia il ragazzo che ha fatto il modello al Bacco. Quindi vuol dire che quei ragazzi non li andava a cercare fuori Caravaggio, se li trovava lì nel palazzo di Del Monte, che peraltro era Palazzo Madama, cioè oggi sede del Senato. Allora Sgarbi dice sì, lui andava in giro, reperiva questi ragazzi e li dipingeva. Non è vero, i ragazzi erano lì, nel palazzo del Cardinale Del Monte, dove Caravaggio ha abitato, accolto da Del Monte, dal 1595 al 1600. Queste tele di cui ho parlato risalgono tutte a quei 5 anni. Non le dipingeva Caravaggio per suo diletto, ma le dipingeva su commissione del Cardinale del Mondo, di Giustiniani, di altri banchieri, notabili, finanzieri, prelati e compagnia bella. Quindi il desiderio di avere su tela immagini androgine, equivoche, ammiccanti, erotiche, non era di Caravaggio, ma era dei committenti che gli chiedevano di dipingere quei soggetti in quel modo. Nel liutaio, ne abbiamo parlato prima, quello per il quale ha fatto da modello Montoya, il castrato, c'è uno spartito musicale, le cui note si individuano, e si è risalito al testo. Ed è un madrigale, il cui incipit, e dice questo: voi sapete chi io vi amo. È riferito ovviamente non a Caravaggio, ma è riferito al committente. Peraltro, e qui insomma io la ritengo una prova inconfutabile, quando Caravaggio uscì, lasciò il palazzo di Del Monte e continuò a dipingere, nelle tele successive non figurano mai più personaggi androgini, effeminati. E anche lo stesso San Giovanni Battista, che Caravaggio ha dipinto in 7 tele, nelle prime è l'adolescente effeminato, ma sono sempre tele dipinte nei 5 anni di ospitalità del Monte. Ma gli ultimi San Giovanni, che risalgono al 1609-1610, rappresentano San Giovanni seminudo, ma non è mai in atteggiamenti equivoci, ammiccanti, erotici o altro. La stessa avventura è capitata a Botticelli, per il quale si diceva che per via degli angeli che dipingeva attorno alle Madonne, Madonna del Magnificat, Madonna della Melagrana. Ecco, ma quando Botticelli, che frequentava l'ambiente raffinato dei Medici, ha lasciato quell'ambiente, attratto anche dalle prediche di Savonarola, Botticelli nelle sue tele successive non ha più riprodotto quei soggetti androgeni. A differenza invece di altri pittori chiaramente omosessuali, tipo Michelangelo o Leonardo, ecco, Michelangelo basterà raffrontare la Madonna del Tondo Doni, che è un tondo agli Uffizi, molto bello, e la Madonna del Giudizio Universale della Cappella Sistina. Queste due opere si distanziano per 33 anni, cioè il Tondo Doni è del 1503. E la Madonna della Sistina del 1536. In entrambi i casi vediamo una Madonna con braccia muscolose, con un corpo ben strutturato, mascolino più che femminile. E questo vuol dire che in tutta la sua carriera artistica Michelangelo ha avuto in mente come modello femminile una donna abbastanza virile. E la stessa cosa ha fatto Leonardo. E questa caratteristica si è mantenuta per tutta la durata della sua attività artistica. Quindi Caravaggio, che peraltro ha avuto un sacco di donne, tutti sì, prostitute, ma insomma, era poliedrico, era aperto a tutte le esperienze dell'epoca, così come lo erano i cardinali, i vescovi, i papi, e come è sempre stato dalla civiltà orientale, greca, romana, e come sempre è. Ma a Sgarbi, di estrazione culturale giudaico-cristiano-cattolica, piace bollare Caravaggio di omosessualità. Mi sono dilungato. Alla prossima, buona serata. Tutto è tornato come doveva tornare. Io addirittura senza cuffia colgo allora, l'occasione per i saluti, per dirvi che vi voglio bene così come eravate, anche se multiversati non eravate male. È stato veramente un connubio di menti e di, sì, e di cuori, sì, sì, che hanno lavorato all'unisono. Ma soprattutto, grazie per averci seguito. Se avete portato qualcosa dal vostro multiverso qui nella realtà, è il testo della canzone che chiude, esatto, il nostro incredibile palinsesto. È solo che fra per 5, esigenze. 4, 3, 2, 1 parte, forse. Eccola! Forse non c'entriamo tutti col testo, però già dovevamo aver cominciato, quindi... 4, 3, 4! Germi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. 100 celle Avengers! A cappella! La musica si difende! Ciao! Ciao! Ciao!